Job 24. Questo spazio di Job 24 è dedicato ai ricercatori d'Italia, che sono pochi, mal pagati, anziani rispetto a quelli di molti altri paesi. Questa realtà è messa nero su bianco nell'annuario Scienza e Società 2009, realizzato da Observa e pubblicato da Il Mulino. Ci regala uno spaccato del lavoro dei ricercatori in Italia uno dei curatori dell'annuario Observa, Massimiano Bucchi, docente di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento. L'ho intervistato Vanni Truppi. Ma l'annuario 2009 Observa mette in evidenza una serie di tendenze ed aspetti che secondo me sono cruciali per capire anche il ruolo delle risorse umane nella ricerca e nello sviluppo del nostro paese. Abbiamo pochi ricercatori, abbiamo circa 3 su 1000 forza lavoro, pensiamo alla Finlandia ne ha 17, media europea è di 6, quindi questo è un primo dato. Sono pochi soprattutto nel settore privato, 3 su 10 dei nostri ricercatori, solo 3 su 10 lavorano nell'industria, 7 su 10 lavorano nel settore pubblico e poi direi l'aspetto generazionale, cioè le nostre risorse umane impiegate nel campo della ricerca e dell'innovazione sono piuttosto elevate come età. Addirittura se guardiamo all'università un quarto del nostro personale docente ha più di 60 anni. Questo credo sia un dato su cui bisogna riflettere. Un altro aspetto di cui tenere conto è che siamo un paese molto disomogeneo. I risultati dei nostri studenti in scienze e matematica non sono buoni nella media, però abbiamo regioni come il Friuli Venezia Giulia, come il Trentino, come il Veneto, che sono vicine all'Europa e all'OCSE. E purtroppo alcune regioni del sud che sono molto molto più in basso anche della media italiana, che come ho detto è bassa. Lei parlava di retribuzioni, la media quant'è per un ricercatore? La media è di circa 32.000 euro annui, negli Stati Uniti è il doppio, ma anche in paesi europei comparabili con noi, come la Germania, è piuttosto elevata. Questo è un dato che ci vede veramente agli ultimi posti in Europa e nell'OCSE. Poca ricerca nel settore privato significa che le industrie, le aziende investono poco in innovazione e ricerca? Certamente c'è un problema di far cooperare questo tessuto di piccole e medie imprese almeno a livello di ricerca, innovazione e di reclutamento delle risorse umane. Ed era il professor Massimiano Bucchi. Molti dati, molte informazioni aggiornate sul mondo della ricerca, sul rapporto tra scienza e società li trovate nell'annuario Observa Scienza e Società 2009, curato appunto da Massimiano Bucchi che abbiamo appena ascoltato. Ed è tutto per oggi. Prima di salutarci ricordo che domani, come ogni mercoledì, Job 24 è anche sulla carta stampata all'interno del Sole 24 Ore con notizie, approfondimenti e annunci di lavoro. Noi ci sentiamo alla radio. Un saluto da Roberta Pellegatta.